Da cosa nasce cosa? Arrivo alla meta, era meglio per tutti quando i gruppi erano la metà. Alla mia età o fai così o vai alla cieca. Cieca, è un labirinto come a Creta. Salò Maleta, pace a tutti, piace a tutti. Come Totti, agli italiani o ai terroristi candelotti. La dinamite, il clima mite, l'idea che ti scava in testa a termite. Nelle canzoni devi entrarci, in questa no, artista come Adams. Ad Amsterdam ho fumato la Blue Sky, vedevo le farfalle come su Sky. Nemmeno a Capodanno me la danno capo. Non vado a Capoverde, sono al verde capo. K.O. non mi dimenticare, se crepo, se creo, sono professionale come il segreto. Fissato con la scena, fidanzato col rap, uniti come Hollywood a Johnny Depp. Tu non reggi ritmi, aspetto le dimissioni, porto a termine missioni, capo come Missoni. Prima regola, mai guardare in basso. Mi guardi in giro, scrivo su un giro di basso. La gente sparla, la gente spara. Giudizi, la gente è condizionata come l'aria. Dimmi com'è andata l'intervista. Quale? No, dico l'intervista com'è andata. Male. Non voglio lavorare per un corpo speciale. Voglio solo due ragazze con il corpo speciale. Qui si opera, sono troppo lontano. Per vedermi usa il binocolo come all'opera. Cos'è? Vuoi entrare nel mondo dello spettacolo, ma il mondo dello spettacolo entrare dentro te. Un chilo del pallucino, gena idroponica. Una volta cresciuto non torni bambino. In giro attento all'intercettazione telefonica. Una volta cresciuto non torni bambino. Supersonica, ufologica, atomica. Una volta cresciuto non torni bambino. Questa ganja rende la testa bionica. Una volta cresciuto non torni bambino. Odio il politico come l'asilo, raddoppio le consonanti, assillo. Quando nevica mi fumo delle palme come la domenica. Ho bisogno di calore come pochi. Ho bisogno di parole come i giochi. Con la gente che fa guerra come a Risico. Non sono in confidenza come col mio fisico. Ti lascio un pezzo nuovo, ascoltalo, vado poi torno. In attesa del giudizio come il giorno. La moda non veste, traveste. L'italiano merdone nel film di Verdone. Le vecchie tardone. I miei dischi son fuori come i secondi. Ma i secondi mi assecondi. Se avessi la faccia da santo come il campo, andrei a lezioni di canto. Ma d'altro canto, questo è il nuovo singolo che non passa in radio.